chi è che chiama a canale 10? Avanti per la prova, buonasera, Marco Scorpio. Mi hai sentito per la prima volta, Marco? Sì, mi hai sentito per la prima volta. Miau, miau! Ma sento che c'è forse un gatto dalle parti tue. Marco, dammi un controllo che sono addirittura in arrivo di questo Alan 48 super preparato. Secondo me devi ancora controllare qualcosa, perché sei un po' distorto, o sei fuori frequenza, comunque sei leggermente distorto, leggermente, diciamo che hai una percentuale di distorsione del 30%. No, quello mi interessa se puoi correggere la frequenza, però mi metto in frequenza, lo controllo. Come ti sembra, che spinge come modulazione? Sì, ma sei tutto spostato, Fabri, non riesci a apprezzare la qualità dell'emissione. E adesso sto guidando, mi viene male a mettere mano alla radio. Capito? Ma sei fuori, non sei centrato. E allora stacco e lo attacco alla frequenza mentre vediamo cosa sta succedendo, perché ho montato 200 schede dentro e devo solo metterle adesso, aumentare la potenza e siamo quasi all'arrivo. E controlla un po', adesso ho provato a girare, perché qui la radio che ho è già impostata per 7 di 5, spostandomi 5 su non ci sei, spostandoti 5 giù non ci sei neanche, perciò non lo so, potrebbe anche non essere solo un problema di QTS, di sintonia, ma ha un problema proprio della modulazione, del circuito della modulazione, che c'è qualcosa ancora da mettere a punto, Fabri. Ascolta, sto abbassando un po' il Mickey Gain, è cambiato qualcosa? No, niente, Fabri, è sempre diminuito come sembra un pochino più bassa, ma la distorsione c'è sempre, la tipica schiaff fuori frequenza. Comunque l'eco lo senti? Non ho capito, adesso ad esempio non si è capito neanche cosa hai detto. Lo dovevo dire, l'eco, qualcosa senti sull'eco? No, ecco, ripetizione o comunque effetti camera non sono apprezzabili, non ce ne sono, sembrerebbe di no, non c'è un'ampiezza di emissione così, con ritardi, sembrerebbe di no, Fabri. È forte l'effetto schiaff, che ovviamente il filtro a 6 kHz chiude e ha tutta l'aria di essere una modulazione sporca, diciamo, che va fuori. Guarda, adesso ho aumentato un pochettino il potenziometro esterno dell'eco, qualcosa è aumentato? Assolutamente niente, non è cambiato nulla. È impossibile che non dia l'eco, andava benissimo l'eco, ho solo messo al doppio modulatore, quindi l'uscita l'ho messa sul doppio modulatore. Adesso controllo, anche aumentando non senti effetto eco. No, Fabri, c'è qualcosa che non sta funzionando correttamente, nessun effetto eco, niente effetto eco doppio modulatore, cose varie. C'è ancora qualcosa da controllare bene. Va bene, no, il doppio modulatore sta andando perché è collegato, è proprio la scheda eco che adesso non sta andando, prima andava di montare il doppio modulatore e passa attraverso il doppio modulatore, il trasformatore è più grosso, adesso vedo un po', dai, ci cerco di capire qualcosa. Io sto andando a fare una commissione e poi fra un po' sono nuovamente, sono a Predanieda, sono in giro, adesso c'è un appuntamento e poi sono nuovamente qua in macchina, perciò non ci sono problemi. Chiama se sono, come mi risiede in macchina, la radio è accesa, sia qui che in VHF e in UHF. QSL? Va bene, non ho chiesto, voglio capire almeno questa storia della scheda ecco prima. Ok, va bene, allora, dai un'occhiata, ci sentiamo fra un po'. Attenzione Fabrizio, occhi di gatto, C6, C7, C8, C9. Oggi la nostra PT con il suo inseparabile bassotto ci porta a Palermo per raccontarci il coraggio di un'intera attenzione 1210 per una prova radio, c'è nessuno? Tra poco per sapere cosa avete scelto. Va bene, per me. Attenzione, occhi di gatto se si è all'ascolto. Attenzione, Fabrizio, ci sei? Attenzione, 10 per una prova radio. C'è nessuno sul canale 10? Attenzione, 10 per una prova radio. Dimmi Fabri, stavi chiamando, ti ho sentito da lontano. Fabri. Ora c'è qualcuno? Dunque, mi ero lontano, ho sentito Fabrizio chiamare che serviva un controllo, ma non l'ho fatto in tempo, non so se è qua. Ieri gli ho detto che sono controllo, stavo provando un apparecchio. Fabrizio, sì? Ho finito adesso, stavo cambiando la lavatrice e poi sono rientrato adesso. No, io ero acceso, ho sentito la salone. Stava chiamando Fabrizio, sono entrato però a rispondere, ma non l'ho sentito più, serviva un controllo. Vabbè, già siamo qua, se per caso... Già pranzo, me già pranzato, già cenato, detto. Cenato, che fa chi? Milanese, gioco di maniaisetti. Ora fino alle 9 non ceniamo. Avevo preso due pizzette, c'era mia figlia e mia genera, ho detto veloci, che non ho tempo da perdere, ho detto facciamoci due pizzette, e boom. E via da te. No. Ancora preparando la cena, mia moglie. C'è un freddo fuori, minchia, a casa sta benissimo, sono 23 gradi dentro. Alla grande, ma fuori minimo per i giornalisti. Greco. Ciao Fabrizio. Salvate Fabrizio. Ciao Roberto, ciao Claudio. Ascolta, sto riprovando questa radio qua. Mi dai un controllo? Un po' gracchiante la radio, però l'eco funziona meglio dell'altra volta. Ascolta, abbasso un po', che noi siamo molto vicini, ho abbassato un po' il Mickey Gain. Claudio, come ti sembra? Adesso c'è il doppio modulatore. No, per me è una bomba, infatti hai detto bene. Ciao Fabrizio, sono entrato a rispondere, ma non mi hai, forse ti eri allontanato. Per me è una bomba, segnale, radio, fortissima la radio, l'eco bello calibrato, molto molto forte. Allora, aspetta, regolo i watt. Adesso qua sono, guarda i picchi, adesso sono a mezzo watt. Poi 9.10 con picchi a 9.20, 25 la grande. Però è più bella se sollevi appena appena il watt della radio. Allora, è così. Ok, no, c'è il potenziometro esterno che ho messo e li regoli da lì i watt. Adesso gli sto installando per dargli almeno, credo, una ventina di watt. Alza un po' la radio, Fabrizio, riesci? Allora, io ho abbassato un altro po' la radio, c'ho il Mickey Gain qua, c'ho tutti i comandi, li ho messi esterni, quindi regolo tutto dall'esterno. Ah no, adesso a provare ad alzare, cosa succede? Adesso ho alzato, guarda, adesso sono al massimo, adesso allontano un po' il microfono dalla bocca, adesso sono al massimo, ora ho abbassato un pochettino. Ora ho abbassato un altro pochettino, adesso sono a 3, ho abbassato un altro pochettino, adesso sono a 4, ho abbassato un altro pochettino. No, lascialo, solleva. Buona manetta, Fabri. Tipo camionaro, adesso lo chiudo, dai. Importante che stia uscendo il tutto, anche il bip, se mi confermate così lavoro sulla potenza solamente ed è quasi finito. Per me sei una camionata, proprio una... Un'ottizia di camion di quelli super, alla grande Fabri, c'hai dei picchi micidiali, è fortissima, la radio è fortissima, bella, chiara, modulazione ecco, bella regolata, corposa, modulazione, per me è eccezionale. per me lo puoi chiudere. Radio Killer. Ah, già, va bene Fabri, va benissimo. Mario, non ti devi troppo allontanare dal microfono, però se parli alla distanza giusta va benissimo. Sì, no, era più che altro, Roberto, era una sfida con me stesso, che tutti li elaborano questi baracchini, poi quando è chiuso ti mando il video, perché praticamente si cambiano le luci, c'è il colore del display, va tutto rosso in trasmissione, e tornare anche il display, il frontalino ancora lo devo piazzare. Niente, va, adesso c'ha il Mickey Gain, l'eco regolabile, i watt regolabili, e poi c'ha il parlascolta che non mi sta funzionando, devo capire perché, da controllare. Poi sull'altro tastino c'ha lo squelch automatico, gli ho messo con due posizioni, poi l'altro tastino c'ha i cosiddetti canali, e l'altro tastino sarà la potenza per aumentare la potenza dei watt da 5 watt a 20, 25, non lo so quanti ne dà. Cos'è, Alan 48 questo, Fabrizio? Sì, un Alan 48, il problema è farci stare tutto dentro, poi ti mando le foto, anche a te Claudio, quando è finito. Ma il numero uno, l'Alan 48 modificato, è una bellissima radio, cazzo, veramente forte Fernando e Fabrizio, sia di segnale che di radio, bella corposa, mi piace, molto molto bella. Chiudila e lavoraci sulle altre cose, perché così va benissimo alla grande. Va bene, allora vi ascolto, attacco l'altra radio, vi ascolto, ma continuo un pochettino, un altro po', perché quest'notte devo lavorare, quindi adesso come arriva mia moglie mangio e smetto, sono tutta la sera attaccato a questo cicafuso. Io a te, io uccide, però punti, finita che viene fatta a farla e finirla, vai, alla grande Fabri è andato a lavoro, alla grande, vai Robby. Che io, solo che non c'hai ancora la tonalità da camionista, devi parlare più lento, il linguaggio da camionista, Fabri, dai, parte di scherzi, perché vedo che ho quel tipo di apparati, devi essere abituato, noi siamo abituati diversamente, comunque, bello, già va bene, dai, l'ecco, bello, bello, non sporca la modulazione, va bene, perché l'altro giorno quando eri con l'ecco eri un po' così, oggi è tutto totalmente diverso. Sì, perché io avevo montato la scheda ecco, ma non ancora il doppio modulatore, oggi ho montato sia il doppio modulatore col trasformatore. Per il resto sto terminando di lavorarci, poi vediamo, anche perché ho dovuto cambiare un paio di potenziometri, perché poi alla fine mille problemi, poi ho buttato tante di quelle ore, io non ne ho mai fatto, quindi un conto è chi le fa, spesso se lo fa occhi chiusi, ma qua devi studiarti tutto, e non trovo i poker in rete, sono gelosi, raccontano poco su queste modifiche, non so perché, e quindi in rete trovi poco e ti devi appentare tu a... Sarà a togliere la scheda FM, è stato un problema, perché comunque scollega anche il modulatore vecchio, per cui mettere questo nuovo non è semplice, cioè non è difficile, è una stropidaggine alla fine per chi le fa spesso, però se inizi dall'inizio devi lavorarci su, devi studiarci un bel. E poi il problema di queste è che molte c'hanno quasi tutte queste qua, c'hanno l'emulatore, quindi anche sugli altri canali non è che riesce a fare la centratura perfetta e bisognerebbe trovare proprio il suo integrato, ma non si trova, ed ora montano questi cavolo di magia dalla fabbrica. Eppure ci sono altri emulatori per i 120 canali, quindi la prossima modifica toglierò questa schedina e metto direttamente quella dei 120 canali, che devi montare tutta la parte PL nuova, però è un po' più complesso, bisogna smontare mezza apparecchio, però vediamo un attimino. Vabbè, non è che mi interessano molto i canali, era giusto per vedere il resto. Dai, grazie a tutti e due, buon proseguimento, e io proseguo qua a vedere due cose e vi ascolto. Ok, va bene, non c'è problema. Ok, vai Claudio. Non problema Fabri, niente è possibile per te. Quando punti di bene, tu non vedo da qua. Ok, dai, ottimo lavoro, prosegui, noi siamo qua a fare due chiacchiere con Robby, poi anch'io mi allontanerò per la cena. E quindi Robby, 2P7 su chi andiamo oggi? No, capito, scusa? Hai detto 2P7 su chi andiamo? Ehi, a veloce, non avevo gara di cose, poi ieri ho mangiato pesante, c'ha un mal di pancia poi la notte, perché la roba piccante mi ha fatto male, mi sono svegliato alle... forse erano le 5, 4 e mezza, c'ha un mal di pancia, proprio mi ha svegliato il mal di pancia, meno male che è passato. Anche noi ieri noi siamo andati sul pesante, anche qui già abbiamo cenato secco con Franco. Dico, siamo stati molto bene, non si è fatto tardi, alle 11 sono andati via, anche perché l'altra settimana sia lui che la moglie lavora, quell'aria c'era l'apertura, stamattina si è andata alle 6, poverina, perché doveva aprire il bar. Va bene, KK, io sono sempre con quella radio là, sempre con Voyage, il microfono è sempre quello che ti ho detto. Oggi mi voglio meglio, non lo so. Franco, secondo me non sta più entrando, sì, che entra, che a volte non ne ha voglia, è impegnato, poi mi sembra che stia lavorando anche la sera, poi se non mi ricordo, già mi ha detto, però è incasinato, si è troppo presto. Vabbè, a volte si accende, non c'è nessuno, nell'ora che magari lui è libero, quindi vabbè, comunque, già si fa sentire, glielo detto. Io, vabbè, neanche io intendo il gioco. Adesso perché ho sentito Fabrizio, cioè avevo la radio accesa, ho sentito Fabrizio e mi sono precipitato, mi stavo dando una sciacquata a risponderlo, però si era allontanato, poi fortunatamente ha ripreso, l'abbiamo risposto, se no non pensare, se poi sentite a te chiamare ti ho risposto a te, no, non è che non rimango molto a radio, mi secondo te ci hai capito, papà, te lo dico, che me l'ha fottuto. No problem. Gianfranco, si è sentito stasera, e mi ha fatto una bella chiacchierata, siamo andati oltre i termini normali, perché alle 8 normalmente si fa mangiare oltre un quarto, e abbiamo fatto 8:30. Mi ho sentito di sfuggita, perché poi quando è arrivato Franco, alle 8:30 è arrivato, mi pare che stavate già chiudendo, però prima, in attesa della preparazione della cena, vi ho sentito parlare appunto un po' di... però è bello ascoltarvi, perché siete due persone che parlate di cose serie, di radio, un po' di in generale, eccetera, eccetera. Quindi è bello anche ascoltare, io a volte vi ascolto spesso, sia te che lui, a Giulio lo stesso, ma a volte non mi va neanche il canale radio accese, sinceramente, a parlare, anche se sono quelle poche persone. Molto bene. Non ho toccato niente, Roberta, come me l'hai regolata tu con Gianfranco ieri, l'ho lasciata così. Dovevo fare alcune cosettine, alcune regolazioni, ma già va bene, l'importante è che esca. La voglia, infatti, mi sembrava un'altra radio, figurati, non ero sicuro che era quello lì. E spinge anche senza amplificazione, la cosa bella è quello. Non so, è un MC50 questo, un MC50 normale, l'ho aperto, l'avevo preso usato, perché ne avevo un altro, l'avevo fatto proprio a Fabrizio, gli aveva fatto un circuito di amplificazione come l'MC60, una bomba, non so se ce l'ha ancora. Poi mi è capitato l'occasione per il 780 della Kevo, del Vibanda, che ci avevo V&U, che proprio il suo microfono di gira tavola l'MC50, e me l'avevano fatto avere Capri, Gianni. L'avevo preso, è nuovo, veramente nuovo, originale, nessuna modifica, anche i colori, tutto originale, bellissimo. E l'ho attaccato, le ho solo invertito le connessioni da Kevo, da Iesu. Attaccati, ho visto che spinge perché sicuramente questo 757 deve essere truccato, non lo so, perché anche i watt sono tanti, ne ha più di 100, però li tengo sempre a 20 watt, un picchi a 30-35, e il Mickey Gain è abbastanza, perché c'è il Mickey Gain, il processore tutto a manetta, il processore inserito e il Mickey Gain a manetta. Prova a fare una prova tu il processore, solo a vedere cosa cambia la modulazione. Guarda, così è tolto il processore, così è senza processore. No, fai passaggio, con il processore senza, così vedo quanto cambia di livello. Aspetta un attimino, mi accendo. Prova a parlare. Allora, così è col processore inserito, 1, 2, 3, 4, così è disinserito. Cazzo, 10 punti pare, poi si abbassa parecchio la radio, però non è che modifichi, pensavo te lo peggiorasse, più o meno come senza processore, la qualità parliamo della radio, non è, perché molte volte quando attacchi il processore te la sporca, come modulazione è buona, niente da dire, il segnale si abbassa parecchio, prova a fare senza processore. Così è senza processore, perché non c'hai picchi di modulazione, così è. Ma già c'è dei picchi di modulazione, se 9,25 è quasi 9,30, mentre l'altro 9,30 lo superi di un peluzzino. quindi così col processore inserito spinge di più, è normale, ma vedo anche la lancetta che non impazzisce, ma comunque già viaggia. No, ma anche senza processore c'ha dei bei picchi di modulazione. Sì, va bene, va bene. Non vi siamo veramente bella, poi ho messo la maglietta che non c'era, è veramente bella sta radio. È un po', a me mi sembra sia inferiore, come sia come ricezione, ma sia come trasmissione sono uguali al 140, quelle radio lì, non a 440, 430 perché non ha fai dubba. Però c'è il prefischietto delle antenne, è un po' più completo il 140. Il bando laterale mi sembra un po' superiore al 140, non so, ho provato a fare comparazioni, ma così non è che sia molto, insomma, ci vogliono antenne giuste, antenne non ne ho più, quindi facendo tutto con la Mantova, non lo so, però mi sembra un pochino più, meno selettiva rispetto al 140 che è della serie, insomma, di quella serie lì, però come radio è molto più bella esteticamente, è molto più completa. Sì, sì, rispetto al 140 è meglio sicuramente, tra il 440 preferisco il 440, però rispetto al 140, secondo me è il concorrente naturale del 140 migliorato, perché gli hanno messo qualche fesseria in più, c'è il amplificatore di antenna, qualche tastino più maneggevole, anziché quel 140, il difetto grande che c'ha quegli slider piccolini che come li tocchi tu, poi se ci cade il polvere in mezzo, se ne pensa mezz'ora a pulirli. No, il problema è che ci inchiodano anche, diventano duri ed è un casino, devi sempre cercare di tenerli puliti, lubrificarli ogni tanto con degli spray buoni per contatti, non certo con stronzate. No, ma infatti è... Beh, il 757 GX2, questo GX2 è quello, praticamente quello più completo, il GX non aveva nulla, io ho avuto anche il GX ma non aveva niente, questo GX2 è abbastanza completo come radio. Infatti la Iaesio mi ricordo ai tempi che fu in era aperto Mario Lottari che l'era arrivata a lui proprio questa serie, mi pare la prima serie eccetera, e già era uscito il 140, aveva detto proprio progetto tu che la Iaesio aveva fatto questa radio per dare mattana alla Kenwood, capito? Però ti dico che la linea completa del 757 è bella, cioè l'alimentatore di linea con la colonnina direttamente già attaccata, è molto bella, poi c'è il coso, è una linea 3 mi sembra che sia, l'avevo vista in un catalogo, molto bellina. Sì, l'ho vista, ne stavo vedendo una, non era la sua, Luca Flipper mi sembra, con l'alimentatore, la colonnina con l'alimentatore incorporato, molto carina, bellina, più bella di quella del Kenwood, dell'SP23. Io della Iaesio ho l'SP901 di colonnina enorme, gigantesca, l'ho attaccata al trio, a quel ricevitore valvolare della trio, sembra il fratello proprio, perfetta come colori e come grandezza, la stessa altezza, ma enorme, cioè di larghezza è poco meno del 440, però è molto più alto del 440. Beh, io ho avuto quello grande, l'857 che era il quadribanda, ma no, il 767 forse, 767 è enorme, è grande quanto il 940, bellissima radio, e ti dico che funzionava molto bene, e vabbè, ne sono passate in mano, adesso non è più né tempo né periodo per me, c'ho altre cose in testa, altri hobby, diciamo così, dai. Molto bene, vediamo un po' se qualcuno vuole entrare sul canale 10. Non ho visto, no, la colonnina bella è quella del 940, l'SP940, quella è bellissima, quella mi aveva dato tu con i filtri, quella ha una spettacolare come qualità di sonora, rispetto all'SP23, quel giocattolino, proprio fare un radiolina contro un radione, cioè con impianto stereo, c'ha quei filtri, c'ha tre filtri, due degli alti e due dei bassi, ma cambia totalmente il suono con quella radio attaccata, cioè con quella colonnina attaccata alla radio. La cena è pronta, ragazzi. Via Gianfranco, poco fa ti abbiamo nominato, sono entrato un po' in ritardo, ho detto Gianfranco sicuramente a cena, eccotelo qua, avanti Claudio per Gianfranco. Ciao Gianfranco, e allora mangia se è pronta la cena, io sono alle 9, no? Quello che stavamo parlando stamattina di quella persona là, quel 920, ha anche l'SP8, che è uguale alla Colonial 940, con i filtri, c'è addirittura il grafico disegnato, capito? Molto bella, costa 180 euro quella Colonial, l'avevo pagata io per 9 vite, me l'avevo comprata quando era in fiera, l'avevo comprata a Marco Scorpio, e quando l'ho portata mi sono spaventato, perché ho detto prendimela, ricordo, quando ero andata a Sassi, ti ho portato carissimo la Colonial, vieni che ti riesci, tanto non mi ha detto, ho detto, quanto è Marco? 180 euro, il coso in mano, la garanzia è scontata in mano, mi sono spaventato, una mazza che ti viene in mare, 2 risate ce l'avevamo fatto, quanto una barca di soldi con la Colonial, la SP8, che è della linea 920, 950, tutta quella linea lì, mi pare addirittura che l'avessero fatta anche, mi pare che Fallini anche con 5.000, boh, forse a Fabrizio bisogna chiedere, una bellissima colonia quella tutta nera. Carissimo Gianfranco, ciao, buonasera, ben ascoltato. Sì, ciao, buonasera a tutti, io ho già cenato comunque per la cronaca, era per voi più che altro, perché so che anche Roberto cena abbastanza presto, tutto lì. No, ero sempre in ascolto e sono a caccia, no? C'è chi va a cacciare col fucile, io vado a cacciare la radio, che è lo stesso, uno sport interessante. E riprendi Roberto, io sono qua in ascolto comunque, ancora per un pochino. Sì, no, io ho detto a Claudio, ho mangiato veloce 2 pizzette con mia figlia e mio genero al volo, è bella però il 920, non me lo ricordavo, Claudio, è veramente una bella radio, c'ha doppio ricevitore. Ma stai scherzando? È una radio eccezionale, sì, c'è il doppio display, puoi fare sia 40 e 40, sia 20 e 20, 80 e 80, oppure puoi mettere puoi dividere le bande, capito? Bellissima radio, la voluta, ottima, molto selettiva, qualità prezzo, ti immagini con la radio quando è uscita, l'abbiamo comprata, l'ho comprata proprio, eravamo in fiera tutti assieme, allora i tempi erano belli, era appena uscita, qualità prezzi, il prezzo suo era 1200 euro, ma qualità prezzo era, l'avevano comprato tutti, molto, era molto ricercata da tutti noi radioamatori. E poi chiaramente il passo insomma va avanti, la tieni magari 6-7 mesi, io me l'avevo tenuto un anno o 2 anni, l'avevo venduta, avevo preso l'FT 1200 che era quello che appunto aveva sostituito il 920, capito? Però esteticamente mi piaceva molto di più il 920 che l'FT 1200, sinceramente. Poi chiaramente come qualità di radio 1200 è superiore perché è un altro tipo di macchina, però esteticamente per vederla era più bella. Bene, quindi ha mangiato Roberto, ha fatto un giro del tavolo, lui, la figlia e il genero, ci hanno mangiato proprio girando intorno al tavolo 2 pizzette e basta, già fra capito tutto qua, invece io, siccome sono di buona fortezza, sto aspettando una bella pasta stanotte condita in modo particolare, c'è l'insalatina, la cosettina, eccetera, eccetera. No, io mi devo tenere leggero perché se no qua non ci si alza più dalla sedia, ecco, tutto lì. Ma io non mi posso lamentare, io intanto mi peso e siamo il peso è giusto, diciamo, quello, il peso è giusto. Io già avevo tagliato i ponti da quando ero nell'altra casa, molto meno, poi uscite zero, roba gasata eccetera zero, quindi da quando sono qua sto mantenendo il peso, anche perché mi muovo spesso, quindi insomma vado benissimo, perciò insomma, posso permettere a volte anche di traffare come ieri notte, ma a pranzo oggi un'insalatina leggera, ancora di pomodorini freschi, dell'orticello del mio vicino, e insomma insalatina, stanotte magari mangio qualcosa di diverso, sto qua. No, l'insalata è sempre piacevole, se poi roba fresca, pulita, non è roba di città mercato, bella passata di pomodori e citrioli e cosa, voglia, troppo buona. Città mercato, le compro io nei supermercati di frutta e verdura, io lunedì vado alla Piazza Resceni, c'è un carissimo amico, tutta roba di sorso, di orto, roba sua, compro lì, poi c'è il mio vicino che c'è l'orticello che ci ha fatto una dietro, e quindi quando prende la roba mi porta sempre tutto, anche i condimenti, i basilico, prezzemolo fresco, c'ho la menta, c'ho tutto, il marino, tutte le cose, poi pomodori, cipriori, melanzane, peperoni, tutto, mi ha fatto una bella zucca l'altro giorno grande, mia moglie l'ha fatta, l'abbiamo carote, insomma tutto, ha fatto un passato di verdura micidiale, proprio tutto un bel bollito, poi frullato, cioè tutta roba genuina in campagna, non ve ne è pochi, come si dice, quando sei in campagna c'hai i maiali, le galline, vedi? Mi sarebbe piaciuto avere un po' di galline. Grazie, a me sono amica mia, due galline piccoline le avevate, c'avevano poco tempo, poco più che pulcini era. Allora sono andati in Mario 07, poi il gatto ne ha mangiato altrettanto e ne è arrivato un altro e è uscito un gallo. Tu devi vedere, non riesco a farlo, è tutto pieno di piume, sembra un coso. No, infatti no, non metto niente, anche perché io ho il cane ancora qui. Quando non ci sarà più Filippo vediamo, cioè, anche perché nell'ingresso, proprio nella sala privata dove entriamo noi, c'è una persona che lì c'ha una casa, però non finita, con un bel posto, tutto quello pulito, eccetera, e tiene due cavalli, ma sono uno spettacolo, due cavalli che sono fenomenali. Mia figlia è sempre innamorata, no, ma un cavallo, sì, quello cavallo ti manca, così, no, sporca troppo, mangia un bel, devi tenere molto, se no me l'avrei preso un bel cavallo. Dai, la sua bicicletta, allora, il cavallo è peggio del cane, 10 volte il cane, per i problemi che ti dà, delicato, malattie, cura di tutto, dai denti agli zoccoli, di tutto e di più, poi non parliamo di medicine quando lo devi curare quel cane, e poi quell'animale, lascia perdere. Il cane è bello, tipo casa tua, c'era stato in coso di tenerlo, però io in appartamento, quelli che li tengono in appartamento, assolutamente, io ho finito con i cani, saranno almeno una 15 d'anni che ho finito, basta, non ne voglio più. No, ma infatti il mio stava soffrendo, la decisione era già quinquennale, nel senso che Filippo, io ce l'ho 8 anni, e la decisione l'abbiamo presa già da 4-5 anni fa, però chiaramente io non potevo allargarmi più di tanto, sì, i lavori erano stati iniziati, le cose erano già state fatte, hai visto, non sei venuto tu, ancora eravamo in alto mare, però praticamente è stata fatta proprio la scelta vera e propria, è stata fatta per mantenere un animale nelle condizioni belle che si deve tenere un animale, lui c'ha spazio, non è che un grande giocherellone, però tu le apri la porta, va, esce, c'ha il suo prato proprio suo, perché c'è un pezzo dove glielo adibito a lui sta lì coricato nell'erba, che poi sopra l'erba ci ho messo una mocchetta verde giusto per non bagnarci, eccetera, lui sta lì coricato tutta la mattina quando c'è caldo, quando c'è sole, quando c'è freddo se ne entra dentro da solo, con la testa bussa alla porta, io le apro, lui va, si corica nel suo angolino, insomma sta molto molto meglio, assolutamente. Sì, d'accordo. Poi, data l'età, è anche ormai in pensione qualche anno, quindi se la gode, no? Mi ha anche diritto, però ormai. Cioè, quello che c'era stamattina stavi parlando, già l'hai conosciuto? Ma quello che stavo parlando stamattina è il padre di uno che conosco, ma non mi ricordo come si chiama di nome. Collega tuo, mi era, lui era dentro agli uffici, mezzo dirigente, lui era, è stato dal sindaco, dal comune sindaco, Giovannino Russo, il padre di Antonello di Lel. C'è un esilio, ragazzi. Infatti ci stavo parlando, però ci aveva sempre la mascherina, volevo dirglielo se era appunto il signor Russo, perché io ho avuto anche a che fare con lui, io sono stato un periodo in via Principessa Iolanda, ma giusto così lì all'ufficio protocollo, ma quando era ESAF, però lo conosco. Picchia, la prossima volta che viene glielo dico. Era sempre un picca mascherina in bocca, che è infatti è tutto strano, ho detto, ma l'ho riconosciuto, cacchio, c'era una vita, lui ha lavorato al comune una vita come cosa. E fratello il figlio, Lello è un pezzo grosso come alla mano. Sì, è stato il mio dirigente quando ero a Sassari, poi a me mi hanno trasferito, perché lui è stato dirigente del distretto 6, poi sono passato al distretto 7, quello della Gallura praticamente, quindi io di prendevo la Olbia, ero anche se ero a Trenta Lagurto, Badesi, quella zona lì, Santa Maria Alcuina, Valedoria, riprendevo la Olbia però perché quello è un altro distretto. Però quando ero nel distretto 6 il mio dirigente era lui. Ma poi questa mascherina, poi stavolta era venuto uno a fare le condoglianze, un ragazzo che ci conosciamo da ragazzine, lui è più giovane di me, però ha giocato da noi proprio un ragazzo ragazzo, e Giovannino era il suo allenatore, è stato pure il suo allenatore, ma non mi ha così conoscere, poi ha detto, ma sei tu, ma certo, sono io. Ma come te così, a volte mi saluta, ma ciao, chi è caro? Allora, ma chi c'è? Come è capitato stamattina? Mette mascherina, ormai non ti conosciamo più uno con l'altro. Massima, quindi, che si dice? Ma stai andando a lavoro tu, sì, o sei ancora in ferie? Ciao. Sì, era un po' lontana, non ho capito bene. Ti riferite a me se sono in ferie o che cosa? Sì, tamponavo, se stai andando a lavoro sei ancora in ferie. No, adesso domani sono in servizio, dopodiché... infatti mentre stavate parlando stavo rassettando anche il telefono di servizio, dopodiché me ne sto un bel po' a riposo, ma un bel po' in attesa del fatidico calcio nel sedere. Oh, che cacchio, era ora che ti togliessi la mezza le balle, e anche tu e appartenete alla famiglia dei rincoglioniti. No, a quella ci appartengo già, ricordati che sono più grande di te, quindi sono già un membro anziano di quel club. Siamo in paziente attesa di Roberto, ecco. Non so quanti anni avete, vabbè Claudio più o meno lo so. Tu quanti ne hai, Gianfra? Io sono a 6'4". No, vabbè, ancora non ci sono arrivato, mi auguro di arrivare. Io mi sono fermato a 58 a settembre. Cazzo Gianfra, non so però quante sono, arrivi 67, 68, due in più di me ne hai. Per 2 anni in più di me io li faccio il 20, 62, quindi il 20 di novembre naturalmente, il prossimo mese faccio hai 2 anni in più di me, cazzo sei già più rincoglionito di me. Sì, se ho 2 anni più di te è ovvio che sia più rincoglionito, ci mancherebbe altro. State dietro a tante cose, sta iniziando a diventare pesante, poi si studia sempre, si roba nuova, casini nuovi, insomma ce ne siamo un po' tranquilli, mi capito, fuori da dai troppi casini che ci sono, e quindi buonanotte a tutti e così via, arrangetevi. Hai capito allora perché io me ne sono andato via quasi 3 anni prima, sono stato col piede sbagliato una mattina e ho detto basta, non ce la faccio più a sopportare a tutti e a tutto, capito? Sì, devo venire a cucinare. Ma io 25, adesso già chiudo. Venite a mettere l'acqua, fa cortesia. E devo fare un sughetto. E quindi niente, capito, già faccio più, non ce la facevo più. Mentalmente non ce la facevo più. Fisicamente, grazie a Dio, non ero a pane picco, però mentalmente non ce la facevo più. Tutti i santi giorni arrivi in ufficio e stanno già aspettando a te, no? Stanno già aspettando a te con tutto il programma di lavoro e devi impostare, fare, seguire, andare, tornare, cioè per 6 ore e 40 all'ora, io mi trattenevo anche 8, 10, 11 ore, soprattutto per il direttivo non ce la facevo più, guarda, ho scoppiato la mattina, sono stato più sbagliato, sono arrivato in ufficio e ho appoggiato le chiavi degli impianti sulla scrivania del dirigente, ho aspettato perché lui non entrava mai alle 7, lui entrava alle 8, ho aspettato lì. E gli ho detto, caro dottor Tricasa, da oggi io non ci vengo più. Come? Da oggi io giro, queste sono le chiavi. Lei è un pazzo. Vabbè, sarò un pazzo, però queste sono le chiavi dei pianti. Si arrangia, lo mettiamo a casa, ha timbrato? No, arrivederci il mio viaggio, non ci sono più tornato. Sì, tanto non ti fanno fare niente, capito? Tu dici guarda che c'è da fare questo, non ci sono soldi, non è possibile, ma ve la volete, come si dice, le arese in quel posto. Cioè, ho stiamo giocando oppure stiamo facendo le cose serie. A me piace fare le cose serie, io sono notoriamente pignolo pure, e quindi cicciasco. Sì, ma sono d'accordo, la stessa cosa volevo per me, volevano Mari e Monti, segua qui, segua là, ma non è meglio fare così, con quali mezzi, con quale materiale, con quale, cioè di cosa stiamo parlando? Alla fine ti ripeto, già farò, chiudiamo il discorso, se non è troppo lungo. Alla fine ho detto basta, poi devo scoppiare per questi deficienti, perché io sono entrato quando era ESAF e ho fatto tantissimi impianti, tantissime cose, sono stato a Cagliari, sono stato ad Olbia, sono stato nella zona della Gallura, tutta, ti dico che si lavorava bene. Ho fatto 5 anni a Perfura, dei turni, dalle 6 alle 2, dalle 2 alle 10, dalle 10 alle 6, e ti dico che non mi sono mai lanciato. Dal momento in cui è entrato sto carrozzone politico è cambiato tutto. Veramente un massacro, quindi un attimo ho resistito anche troppo, si la biglia in culo, mi avevano tolto qualcosa, ma non me ne ha fatto un po' più manco, guarda di camera, guarda, non sto pensando alle 100 euro agli umiliati, non bisogna più tornare. E ti dico che dopo che ero già 6 o 7 mesi fuori, mi hanno chiamato se volevo rientrare solo nel periodo estivo per gestire la zona di Padule della Marinetta. È stato proprio lì che scoppiamo l'estate. Con due villaggi da 20.000 persone in uno, ma stai scherzando, e con un depuratore e un sollevamento fognario, certo che ogni 3-4 giorni toccava chiamare a Trasfurgo perché scoppiava, lascia perdere, state bene buone, ti faccio ancora, non mi chiami più a me perché non rispondo neanche più, e così ho fatto. Robby, a te il cambio, dai, un altro passaggio, poi mi saluto. Ma sai che c'è stato un break, forse Antonio, avanti, quando stai parlando tu hai sentito qualcuno sotto. Va bene, Gianfranco, anche tu quindi hai lavorato da giovane, sei già quasi in età pensionata. No, non ero io, no, io stavo sto mangiando giù, mi sto sentendo. Era un'altra persona, comunque buonasera a tutti. E allora era un segnale 9.30, no? Non sono molti che arrivano a 9.30. L'audio va passato, però sotto l'ho sentito, ho dato un paio di colpi e ho sentito break. Ok, dove c'è, hai sentito tanto? Gianfranco, tu eri quindi da giovane hai stato lavorato. Guarda, non è proprio come pensi, quello che abbiamo è una forma di congedo particolare, io neanche sapevo che esisteva, invece esisteva, e quindi prima di fare proprio la figura del pollo ho detto no, adesso facciamo questo, ne posso fare, adesso ne ho chiesto un anno, poi ho un casino di ferie retratte, non godute, e quindi tra un trick e track, armi e bagagli eccetera, però sono sempre effettivo, però è come se fosse in ferie per un lungo periodo, no? Capito? Dopodiché, cioè, se voglio ci posso anche andare domani, ma non, siccome sono molto basse, perché adesso c'è in mezzo alle palle questo contributivo, e quindi preferisco questo sistema che è più sicuro, mi hanno detto, più sicuro, e ti permette poi di rimanere, diciamo, con due piedi in una staffa, ecco, senza avere però le rogne che ci sono attualmente. Per un controllo. Daniel Radio, avanti il controllo. Sì, QSL, ciao Roberto, buonasera Gianfranco, buonasera Antonio, conosco chi c'è altro, qui ho da Ruggito, operatore Claudio, QPH di Muro. Se Roberto, sto provando quella radio che domani la devo spedire, mi puoi dare un controllo di come ti sto arrivando, ti per favore, riprendi. Di che radio stai parlando? Quella che mi sia incasinata. No, sta andando perfettamente, il segnale è 9.20, la radio 5 di livello perfetto. Sì, QSL, ma ce l'ho qui perché mi va a sbalzi e tutta impazzita, roba mia. Ho visto quel modulo, mi sono ascoltato con i portatili mio, ho guardato un po' la potenza, sui 50 watt l'ho messa, però è un po' difettosa. Infatti domani devo venire uno a prendersela, che la devo portare in continente, capito? E sono entrato giustamente per provarla per la prima volta, perché poi non lo so, cioè se me la mettono a posto o qualche cosa, perché modulare modula, però è un impazzito, va a cosa al falso, Roberto, mi prendi? Aspetta, ti faccio salutare a Gianfranco e a Claudio. Avanti Gianfranco. Sì, ciao Claudio, buonasera, buon ascoltato. Ti mando avanti l'altro Claudio, ex torre di controllo. Hai detto bene, ex torre di controllo, ma già ci difendiamo ancora. Non c'è problema. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato, saluti in casa. Molto bene, ti ripasso al cambio, poi un altro passaggio chiudo perché devo spostarmi in cucina. Avanti Claudio. Sì, QSL, ciao Claudio, buonasera, buon servizio. Sì, sono contento che mi ascoltate bene, però sto provando una radio, cerco un barranzone, questa radio sembra un'astronave aliena, c'è un sacco di pulsanti, però c'è lo sweeper che non mi funziona, infatti non mi chiedete i segnali, che la devo spedire domani, la devo, sono entrato giusto per un controllo, però c'ha problemi, è difettosissima, capito, hai, è molto difettosa perché c'è una radio un po' vissuta, capito, hai, la sto provando perché volevo provarla l'ultima volta per avere la conferma che gliela sto dando funzionante, perché poi non è che la spedisco e mi leva rogne e questo c'è, che l'ho incasinata io, che cose, infatti sono anche un po' giù di morale per la radio, ho visto che modula, però c'è questo problema al cosa, allo sweeper, capito, sono un po' giù di morale oggi, riprendi Roberto. Guarda, io ti dico, te ne pensiamo avanti, perché questa radio è bellissima, pulita, chiara, la modulazione forte, non è distorta, è un peccato darla, secondo me, veramente è bella, una bella radio. Sì, no, darla non la sto dando, la voglio sistemare, me la voglio, capito, infatti gliela sto dando per farla controllare chi me l'ha data, capito, tu lo sai chi me l'ha data, e gliela devo dare a lui, che la vuole vedere lui, ha detto questo, quest'altro, perché me l'ha venduta lui, però lo sai cos'è, Roberto, lo smetto in questa condizione, l'ho accesa, così ieri, mi fa questo problema, la stavo usando a fare ascolto, ma la stavo, mi si è incasinata, infatti vabbè, se l'ha presa anche con me perché l'ho toccata, e sono un po' più di morale, lui cavolo, non me l'aspettavo proprio perché tra le volte che era vissuta come radio, però cioè, sto pensando che mi hanno dato una fregatura, ma può essere qualcosa anche da nulla, cioè ormai l'ho presa e me la tengo, però me la voglio mettere a posto perché è troppo bella, capito, riprendi? No, vai, non apprezzare, non ti preoccupare, che fossero quelli i problemi, claro, non ti preoccupare. Avanti Gianfranco. A volte capitano queste cose, se uno non sta attento a quello che compra, e quindi poi sei anche vecchia, peggio che mai, quindi è sempre un problema. No, io tutta la mia, Claudio mi sa qualcosa, Claudio Torre, tutta la roba che c'avevo di vecchio l'ho tutta smantellata, ecco. Tutta roba nuova, moderna, che permette ascolti Siri, non di quelli vecchia maniera. Sì, vabbè, però lui la passione del vintage, quindi chiaramente prosegue la sua passione, anch'io l'ho avuta per tanti anni, poi col trasferimento gli ho tutte date, quindi proprio per disfarmi ho tenuto il DAC, qualche luna, perché è ancora dentro l'armadio, poi basta, no? Non voglio più fare stanza di bicca sulla radio, eccetera, eccetera. Comunque. Va bene così, poi il break è entrato, era giusto per vedere se passava qualcuno. No, l'ho sentito sotto, io ti ho detto un attimo quando stavi parlando, prima ho sentito la portante, poi ho detto break, pensavo fosse Antonio, perché ci avete segnali simili, invece no, poi non è entrato, Antonio ha detto che non era lui. E vabbè, è già da qualche giorno, ogni volta che entro poco, ogni volta che entro a fare due chiacchiere, proprio 10 minuti, c'è sempre qualcuno che vuole sovramodulare, che sovramoduli, non è che abbia molto tempo a giocare io. Va bene ragazzi, vi saluto, grazie delle due chiacchiere, nel radio scaldato, adesso lo possiamo spegnere, ciao Gianfranco, ciao a Claudio Di Muros, salutami a babbo, mamma e Ottavio, saluti anche a te Roberto, ciao Gianfranco, ciao anche Antonio che sta ascoltando, un abbraccio. faccio a tutti buon proseguo di QSO. Io chiudo e vado a preparare la cena. Ciao ciao. Ciao Claudio, buon tutto, buona cena. Vai Claudio. Sì, ciao Claudio, ci sentiamo. Buona cena, buona serata. Riprendi Claudio. Claudio, lo chiamiamo Claudio Chiodo, dai. Sì, sì, QSL, vi ho parlato, grazie per il mic. Sì, saluto anche a Sparviero, mi ha fatto piacere Claudio, che ti ho sentito, dai, ci sentiamo alle prossime, buona carica e buona serata, ci sentiamo alle prossime. E anch'io adesso da attacco, perché sono entrato veloce, perché prima non c'era nessuno, insomma, quando l'ho acceso più tardi, poi c'è anche più tardi il prezzo, insomma, e capito, sono ne ho approfittato adesso, dico, per chiedervi un controllo. Con questa radio, perché domani la devo spedire, e che dire, dammi a vedere perché sta andando bene, spero che riescano a sistemarmela, vabbè, perché sono troppo giù di morale, guai, perché mi piaceva troppo, capito, era perfetta proprio questa radio, ma io qualche piccolezza, adesso sto temendo che mi costa una barca di soldi a sistemarla, capito, quello, e sono un po' giù di morale, da, e anch'io, da, ne approfitto per salutarvi, che pronta la cena, insomma, dai, saluto a te, vabbè, a Gianfranco e a tutti quelli che ci sono in ascolto, io passo in QRTSK, ci sentiamo alle prossime, mi ha fatto piacere, un saluto cordiale a tutti e QRT per me, riprendi Roberto. Dai, non ti preoccupare, adesso risolvo, non sono quelli i problemi, ti ripeto Claudio. Ok, buon tutto, buon proseguo di serata, vai Gianfranco. Sì, ciao Claudio, buona serata, allora non ti sconfortare, cose così, insomma, un po' di piacere, però non ne vale la pena, sono sicuro, per esperienza. E quante radio ne sono bruciate, ne sono distrutte in tanti anni di un altro servizio. Figurati, sicuramente anche a te Roberto. Sì, non di questo tipo di radio, questa sì, la cosa più bella è stata che l'ho presa con filosofia quando avevo ancora la radio, piccola radio privata di quartiere, stavo aspettando, era partito un finale, un transito finale dell'amplificatore, c'era il pilota, poi c'era l'amplificatore successivamente, ma niente di grande potenza, un centinaio di watt mi pare che era. E di lì non si tirano mai transistor, possono dare anche molto di più, però li tenevi in condizioni ideali di lavoro. L'ho cambiato, non io, è venuto un amico, appena attaccato, neanche il tempo di accenderlo, lo scacco dell'accensione è partito, detto, ma vaffanapoli. Quella è stata la cosa che mi ha fatto pensare, detto, che cacchio, non l'ha manco collaudato, come acceso è partito. Anche quello capita, vuol dire che il finale è partito per una causa ben precisa, magari una sovracorrente, è partito qualche diodo che da alimentazione, quelle cose lì, e quindi è arrivata la scarica, è andata in fumo subito. Sì, e niente. Io sto controllando una cosa perché mi interessava vedere, mi interessa anche di distanze, no? Di misurazione delle distanze. Quindi sto facendo come al solito due cose in una. E sono contento, sto utilizzando una Comet per l'ascolto, in questo istante la Comet 300. È formidabile, è un'antenna veramente eccellente, non si smentisce la Comet, meglio anche della Diamond, è molto meglio. Funziona bene. Ma io invece sto guardando qualcosa su internet e devono buttare entro il 2022 la RAI, tutte le stazioni a onde medie e onde corte, tutte quelle che sono rimaste, e la prima che ne buttano è il traliccio di Caltanissetta, sto guardando le caratteristiche, è il traliccio trasmettente più alto d'Europa, 286 metri. E pensavo lavorassero con potenze molto più alte, 20 kW, però di lì in quella postazione ci sono tanti trasmettitori 4-5 su altre diverse bande, anche da 1 kW, 10 kW, 5 kW. La principale è quella frequenza a 5,67, trasmette con 20 kW, con un trasmettitore Iris americano, e tutto il resto è Marconi. Bella, una bella postazione, c'è tutto il servizio che ha messo la RAI, un documentario, dai, diciamo un breve, un corto della RAI dura quasi 5 minuti, però è bello, ci sono tutte le unità di trasmissione, una cosa spettacolare.